Viva il marte del Tebro, i telefoni, nostro emaglio guerrier, non più di Roma, di Laura vincitor, degne sua chioma. Oh, giusti nomi, amici, a voi, per voi rilassi, io volo attito, l'amore al genitore, e ben si denno, e già pronti a velischi al tuo valore. Oh, le cieli, porgiamo i voti,